chiudere ogni giorno con una preghiera in un angolo della mia stanza. E accendere una piccola fiamma che resti accesa la notte intera. Lasciare al canto il portar via questo dolore e nutrirsi di quel solo bagliore.